sfiorano fili d'erba di un giorno rubato. Prendono il volo lontane farfalle sul prato. Anche le onde che si muovono in modo diverso.